24 mattino. Gli stati generali, 10 giorni, altri 10 giorni buttati via per niente, questo è il mio parere. Sul razzismo vi fanno ridere, l'abbattere monumenti, l'abbattere... Io sono nato in Svizzera negli anni 60, il razzismo con gli italiani era fortissimo, potentissimo. Che si fa? Si chiude i confini? Chiudiamo confini con la Svizzera, ma dai, non mi fate ridere, giù. Sto ascoltando il dibattito che avete in corso con il sindaco di Nembro, ma non c'era l'esempio di Codogno da prendere. Amico mio, è quello che si chiedono tutti, è quello che si chiedono tutti. In realtà il paragone è esattamente con Codogno e si sta cercando di capire dove e quali siano le responsabilità. Su un fronte che, lo ripeto, poi ci arriveremo tra un attimo, ne parleremo con Paolo Mieli, perché poi è un po' la notizia che domina le prime pagine dei quotidiani. Su un fronte che, certo, sì, interviene la magistratura, per carità, appurerà tutto quello che deve appurare, però è un fronte eminentemente politico, diciamocelo. Sugli stati generali non so. Ripeto, gli incontri, i dibattiti sono sempre interessanti, sono sempre utili i confronti di idee, mettiamola così. Arriveremo anche al tema degli abbattimenti delle statue, dell'idea di abbattere appunto la statua di Montanelli, se ne fa un enorme parlare, così come si discute anche di questa decisione della HBO di ritirare momentaneamente Via col vento, in quanto film razzista, e poi rimetterlo con una contestualizzazione storica. Ci arriveremo più avanti, ne parleremo alle 8:40, sarà con noi Enrico Vanzina, e parleremo con lui e vedremo che cosa c'ha da dire. Allora, i quotidiani di oggi, questa è la seconda parte di 24 mattino, lo sapete perfettamente, sono le 7:21 minuti e 22 secondi ed è la parte dedicata alla rassegna stampa in questo venerdì 12 giugno. Con le prime pagine dei quotidiani molto dedicate alle vicende del Presidente del Consiglio, tra le questioni giudiziarie e i famosi stati generali. Il Giornale. Virus, ecco la carta che inguaia il governo. C'è la prova, l'esercito stava allestendo posti di blocco, ma il Viminale bloccò tutto. Libero, la carta che inguaia Conte, anche qua, vedete, ricorre. Deve rispondere sulla mancata zona rossa vicino a Bergamo, dice Fontana poteva intervenire, ma una circolare del Viminale dell'8 marzo ordinò alle regioni di seguire lo Stato. E la verità, così rimaniamo sui giornali di destra o centrodestra, Conte ha bisogno di un avvocato, ignorate le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. E poi lui che parla, il Presidente del Consiglio, su Alzano rifarei tutto, dice in un colloquio con il Messaggero. Ci sono tre interviste al Presidente del Consiglio su tre giornali diversi, sul Messaggero, sulla Stampa e sul Fatto Quotidiano. Su Alzano rifarei tutto, dice. Conte tira dritto, ho un piano, è il titolo del Corriere della Sera. Il Premier, dopo le polemiche, non fonderà un partito, un giovedì nero per le borse, titola il Corriere. Altri argomenti li troviamo per esempio sul Sole 24 Ore. Ieri la Stampa pubblicava un articolo che parlava degli industriali piemontesi che ipotizzavano di tenere aperto in agosto. Oggi il Sole 24 Ore ci dedica l'apertura, operazione fabbriche aperte in agosto. L'economia si sta lentamente rimettendo in moto e tra le imprese sta emergendo la convinzione che in estate le fabbriche dovranno restare aperte, ovviamente quelle che hanno ordini. La prende male il Quotidiano Nazionale che titola «Non ci vogliono mandare in vacanza». Industriali presenti anche sulle con un occhio negativo, con un riflettore negativo, sul quotidiano La Repubblica e sul Fatto Quotidiano. «Zone rosse, le pressioni degli industriali su Conte», è il titolo della Repubblica. Un Confindustria, dice il giornale, che difese le fabbriche dalla chiusura della Val Seriana. E il Fatto Quotidiano, che torna sulla polemica sulla cassa integrazione, chiagni e fotti delle aziende sulla cassa integrazione, titola il Fatto Quotidiano. 2600 imprese chiedono la cassa, scrive il quotidiano, senza averne diritto. A onor del vero, si parla prevalentemente, negli esempi poi riportati del Fatto Quotidiano, di aziende quasi fittizie, alcune costituite due giorni prima appunto della cosa, che hanno fatto assunzioni fittizie e poi hanno chiesto la cassa, insomma. La pandemia in borsa, bruciati 328 miliardi, il titolo della Stampa. Famiglia, si parte? Si chiede Avvenire sul tema del Family Act. E poi il Manifesto, morte a galla, la marina tunisina recupera i corpi di 48 migranti, in gran parte donne e alcuni bambini, nessun sopravvissuto. E infine, la Gazzetta dello Sport, perché stasera torna la Coppa Italia, finalmente, il titolo della Gazzetta, con due colori diversi, ve l'ho letto così per questo, Juve-Milan, questa sera alle 21, e poi domani l'altra sfida, Napoli e Inter. Ed eccoci dunque, e veniamo a qualcosa di diverso rispetto a quello che domina le aperture dei giornali, come spesso facciamo in questa parte della trasmissione, e fatemi dare atto al quotidiano Avvenire. In questa prima parte molto vi parlerò di scuola e di infanzia, a partire dall'infanzia, fatemi dare atto ad Avvenire del bellissimo lavoro che ha fatto a pagina 5. Perché? Perché ci porta in luoghi del mondo dove succedono delle cose che si aggravano a causa di Covid-19, che non penseremmo nemmeno possibili nel 2020. A partire dal Congo. I piccoli schiavi del cobalto costretti nelle miniere per il Covid-19. E la storia raccontata da Paolo Lambruschi è allucinante. Siamo a Kolwezi, la capitale mondiale delle terre rare nel sud della Repubblica Democratica del Congo, dove è in atto una corsa selvaggia ai minerali strategici del terzo millennio. Sono quelli, per capirci, che servono a fare i computer, gli smartphone e via dicendo, e sono fondamentali. Da qui viene l'80% dell'offerta sul mercato mondiale, e qui si sono spostate migliaia di famiglie, spesso in fuga dalla violenza delle milizie. Sono negli ultimi due mesi circa 200.000 persone hanno abbandonato le proprie case. Attualmente la Repubblica Democratica del Congo è il secondo paese al mondo dopo la Siria per numero di sfollati interni. Secondo le stime UNICEF, almeno 40.000 bambini, parliamo tra gli 8 e i 12 anni, 40.000 bambini lavano le rocce immersi in pozze inquinate per farle trasportare in Cina, che ha il monopolio sul cobalto. In questo inferno senza regole è arrivata 8 anni fa dal Kenya una suor Catherine Muvindi della Congregazione del Buon Pastore, attiva con la fondazione omonima in 70 paesi per proteggere donne e bambini, le ha chiamate il vescovo. La situazione di sfruttamento che abbiamo trovato era molto forte. Le terre rare sono estratte soprattutto da piccole aziende artigianali. Le famiglie non mandano i figli a scuola. Secondo un'indagine che avevamo realizzato nel 2013 nella comunità del Domaine Marial, il 65% dei bambini tra gli 8 e i 12 anni intervistati lavora nelle miniere. Nel 2017 abbiamo scoperto che nell'area di Canina lo faceva quasi l'80% dei bambini in età scolare, lavorare nelle miniere. Questa è la situazione. Le suore hanno girato le comunità minerarie artigianali a piedi, hanno conosciuto diverse famiglie, malnutrizione diffusa, insomma tutto quello che possiamo raccontare, oltre che le ricerche come l'ultima pubblicata da Lancet, secondo la quale madri e figli lavorano per setacciare e lavare il cobalto senza mascherine o guanti e sono esposti ad un elevato rischio di malattie respiratorie e gravi infezioni del tratto urinario. In molti piccoli è stata trovata una quantità di cobalto nelle urine 10 volte superiore alla media, e questa è la situazione. E ora con Covid-19 questa situazione si è aggravata, come si è aggravata quella che viene raccontata dal Perù, con la paga alle baby domestiche, bambine di 12 anni che vengono mandate nelle famiglie ricche, le quali le fanno lavorare come domestiche, e poi gli pagano la scuola, che paga che ormai è diventato un miraggio, e i latifondisti in Pakistan liberi di arruolare i bimbi. Questa è la pagina di Avvenire che mi sembra rilevante per il quadro che dà sulla situazione dei bambini. Ma i nostri bambini, i nostri ragazzini, guardate che un'idea ve l'avevamo lanciata da qua, l'idea che fare le elezioni regionali il 20 e il 21 settembre sarebbe stata un'opportunità per rinviare l'apertura delle scuole. Ebbene, il Fatto Quotidiano, a pagina 6, prospetta esattamente questo. La scuola apre 8 giorni dopo. Prima bisogna allestire i seggi. Il pezzo lo firma Giacomo Salvini a pagina 6. Sono il 20 e il 21 settembre, le due date scelte dalla maggioranza per l'Election Day che unirà il voto in 7 regioni, le amministrative in 1000 comuni e il referendum sul taglio dei parlamentari. Un baricentro rispetto al 6 settembre come volevano i governatori e il 27 chiesto dalle opposizioni, con una conseguenza immediata, anche se non ancora ufficiale, per evitare di richiudere le scuole sedi di seggio. Ad appena 3 giorni dalla ripresa delle elezioni, la riapertura delle aule slitterà direttamente a dopo il voto, probabilmente mercoledì 23 settembre, 8 giorni dopo rispetto al 15. Poi ricordatevi che in alcune città ci sono anche i ballottaggi e quindi poi si richiude, questa la situazione. E con la scuola andiamo a chiudere questa prima parte della trasmissione, con la storia che ci racconta Massimo Sanvito da Libero a pagina 12, con gli studenti che chiedono la bocciatura ad Aosta al liceo Regina Maria Adelaide, ma vi dico una cosa, non la otterranno nonostante l'abbiano chiesta loro, hanno detto bocciateci. No, non si può fare perché il ministero ha deciso che non deve essere bocciato nessuno. Appunto al Regina Maria Adelaide, che comprende scienze umane, scienze applicate ed economiche, uno studente del terzo anno, uno del quinto, in odore di maturità, chiedono al preside la possibilità di ripetere l'anno scolastico. Non si sentono pronti per andare avanti. L'ordinanza ministeriale vergata dal ministro Azzolina però prevede solo i liberi tutti. Hai una sfilza di 4? Promosso. Hai imparato poco o nulla? Promosso. Durante le lezioni dormivi? Promosso. Ed è a questo punto che il dirigente scolastico dell'istituto, Francesco Fazzari, decide di intervenire. Non vuole rimanere passivo e quindi il 19 maggio firma una circolare per dare la possibilità a chiunque lo volesse di poter ripetere l'anno scolastico con modulo allegato da compilare. Viene rimessa alla volontà dello studente, se maggiorenne o della famiglia, la decisione di chiedere al consiglio di classe la bocciatura. Ma appunto, apriti cielo, i sindacati si ribellano, dal ministero fanno filtrare che questa cosa non si può fare, ma nel frattempo che cosa succede? Una lettera del Ministero dell'Istruzione nel quale si spiega che agli alunni con disabilità è concessa la riscrizione alla stessa classe. In pratica, gli studenti con disabilità possono chiedere di essere bocciati e possono ottenere questa bocciatura. Per i disabili sì e per i normodotati no. E il preside dice: io ho fatto l'insegnante di sostegno per 8 anni, ho sempre pensato che nessuno è diverso. Al ministero però trattano la stessa questione in 2 modi differenti, le persone non vengono equiparate. È una balla quella che siamo tutti uguali, ma andrò avanti. Dopo questa lettera ne faccio una questione di principio. Pausa. State ascoltando un programma offerto da... Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Quello Conte, per quanto bravo e furbo anche, ha organizzato gli stati generali, sai perché? Per crearsi uno scudo nei confronti dei suoi interlocutori, soprattutto i 5 Stelle, che questo non lo vogliamo, il ponte non si deve fare, la gronda non si deve fare, questo non si deve fare, nei confronti del PD, di Leu, in modo da poter dire l'hanno detto gli stati generali. Ed ecco qua è l'opinione di un ascoltatore, caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci. Mica shock. No, dell'ascoltatore. Anzi. Allora, iniziamo, direi, se sei d'accordo Paolo, adesso ci arriviamo a tutta questa storia degli Stati Generali, però inizierei da quello che succede oggi. Il Presidente del Consiglio che viene sentito dai magistrati sulla mancata chiusura di Nembro e Alzano, con una magistratura che torna a farsi protagonista nelle vicende della politica, lo nota tra l'altro, se vogliamo stare al Corriere della Sera, Francesco Verderami, no? Un'intera paginata evocando quasi uno spettro del 92. Sì, ho letto questo articolo di Verderami e riporta anche un'opinione di Renzi che dice: guarda, io se fossi Conte, visto che si apre un posto alla Corte Costituzionale, me ne approfitterei, andrei a prendere quel posto perché lì rischia parecchio. In effetti, che cosa c'è dietro questo interrogatorio oggi di Conte? C'è il fatto che se gli arriva un avviso di garanzia, anche di una vicenda che poi andrà alle calende greche, lì per i codici dei 5 Stelle un Presidente del Consiglio che ha un'indagine per un reato così grande, insomma è molto difficile rimanere al suo posto. Comunque i codici dei 5 Stelle, come è noto, cambiano. Sono flessibili. Non fare l'ironico, io guardo veramente, scandalizzo con te. Sono flessibile, hai ragione, questa volta ti devo dare ragione. Sì. L'abbiamo visto per esempio nel caso di Virginia Raggi, se ti ricordi, insomma, no? Celebre. Insistere, prego, i codici sono flessibili. Però anche un caso di flessibile sarebbe il primo Presidente del Consiglio indagato, perché è vero che indagini ci sono anche in Francia, ma sono indagini contro tecnici, sono persone che potevano acquistare mascherine o aprire, allargare dall'ospedale, non l'hanno fatto. L'Italia sarebbe il primo presidente, del resto siamo stati il primo paese in Occidente che ha avuto la fiammata di Covid, e possiamo anche essere il primo paese che ha il presidente del Consiglio indagato, ma sarebbero dolori, ma dolori seri. Comunque... È ovvio che il Presidente del Consiglio e con lui i ministri Speranza e Lamorgese, cioè il Ministro della Sanità e il Ministro degli Interni, tremino perché dipende da un procuratore della Repubblica, un sostituto procuratore della Repubblica, se inizierà o no questo terremoto. Ovviamente tutti i giornali vanno a nozze, ognuno secondo il proprio atteggiamento. Quello che c'è da dire è questo. La legge, come sottolinea anche Michele Aine su Repubblica, è confusa. La legge 883 del 1978 è una legge che dice sì, lo deve fare il governo in questi casi di aprire una zona rossa, ma lo possono fare anche le regioni e i sindaci, e quindi non si capisce bene a chi spetti dichiarare l'allerta del zona arancione o della zona rossa. È vero che poi lo hanno fatto anche numerose regioni e numerosi sindaci, ma dopo che fu fatta la prima allerta. Ma il compito di fare la prima allerta a chi spetta è una discussione. È ovvio come andrà a finire, secondo me, che prima ci saranno queste indagini che faranno tremare Presidente del Consiglio, Presidenti delle Regioni e anche sindaci, perché non dimentichiamoci che il terzo turno sarà per i sindaci, e lì a Bergamo c'è un sindaco di centrosinistra che Gori, che invitava fino a fine febbraio, inizio marzo, andare a ballare, divertirsi, a fare feste, come del resto anche il sindaco di Milano. Quindi sarà una vicenda complicata e finirà tutto, sai come? Con una commissione parlamentare d'inchiesta. Quando si fa una bella commissione d'inchiesta vuol dire che si butta la palla in tribuna e poi chissà, ci vorranno mesi e anni per non approdare a nulla. Mesi e anni che non si approda a nulla. Allora, quello che ti segnalo, scusami, voglio dire, è che c'è come un riflesso condizionato. Tutti i giornali di destra producono carte contro la verità, Conte ha bisogno di un avvocato, carte contro Conte. Tutti i giornali di sinistra producono carte o attacchi a Fontana e Gallera contro Poi verrà la cosa dei sindaci, io la trovo, come ho detto già un mese fa, ti ricorderai, sì, una mossa poco intelligente, quella di procedere giudiziariamente mentre la partita è ancora in corso. Non si è mai dato, anche il processo di Norimberga, i criminali, si fece dopo la fine della guerra, perché allora a bocce ferme uno può vedere e calcolare bene, ma non è mai esistito che a metà partita, mentre la vicenda è ancora... Ripeto, si può fare come in Francia, un processo a singoli tecnici che hanno sbagliato, ma un grande processo sulle responsabilità politiche, farlo mentre la partita è ancora in corso e mentre le tifoserie sono accese l'uno contro l'altro armate, è una follia, una sciocchezza, una cosa che ci produrrà infarti e insomma può farci solo male. Era meglio aspettare e poi farla. Questione di settimane, non di anni. Paolo, allora questo ci porta ovviamente alla situazione politica. Oggi è un profluvio di interviste proprio del Presidente del Consiglio che parla con la stampa, con il Messaggero, con il Fatto Quotidiano, e c'è anche una specie di colloquio sul Corriere della Sera. Ha chiamato cinque giornalisti. La novità da parte di Conte di queste interviste che annunciano forse l'alta velocità, forse questo, la banda larga e altre cose, diciamo, per dare un po' di concretezza, perché gli stati generali saranno, perché se ne dica, saranno una passerella, una perdita di tempo, diciamolo. E, diciamo, la sostanza di questa intervista è che fra i grandi giornali nazionali viene ammesso anche il Fatto, che è un grande giornale nazionale, però Conte ha ammesso anche il giornalista del Fatto. Per il resto, se anche secondo me non così fare una cosa, è meglio farla a tutti i giornali piuttosto che farla sulla fare una conferenza stampa, tutto sommato. Direi, insomma, su una cosa così importante, la ripartenza. Comunque, fra le righe, Conte dice che sarebbe folle pensare a un mio partito, quindi smentisce tutte le voci che dicono che formerà un partito. Vorrei notare che anche Mario Monti, quando era Presidente del Consiglio, smentiva nelle conferenze stampa. Sì, che avrebbe fatto un suo partito e poi regolarmente le smentite contano fino a un certo punto. Ecco. Sì. Non sì, fare ironia, mi raccomando, ma insomma non sono smentite che non possono essere contraddette il giorno dopo. Ci prendiamo una pausa, c'è il traffico, ci ritroviamo subito dopo e poi ripartiamo da questa questione delle fabbriche aperte ad agosto, delle quali si discute tra un attimo. Ed eccoci, l'apertura del Sole 24 Ore, operazione fabbriche aperte in agosto, le imprese sempre più convinte, chi ha ordini deve lavorare anche in estate, Confindustria Veneto con Carraro dice produrre ad agosto per chi ha ordini lo considero un valore morale, e c'è insomma una cauta apertura da parte dei sindacati che dicono sulla base degli accordi territoriali tutto sommato si può fare. Sì, l'articolo di Nicoletta Picchio, Savarani, vogliamo cogliere le opportunità che arriveranno, Marenzi, chiediamo di poter lavorare quando ci sarà da fare, e disponibili anche i rappresentanti dei lavoratori, come tu hai appena detto, anche i sindacati sono abbastanza disponibili, fanno vedere in Alto Adriatico, in Piemonte, in Campania, Puglia, tutti sono disponibili a lavorare in agosto, tranne, avrai notato, i tre giornali del gruppo del Quotidiano Nazionale, che sono Nazionale, Carlino e Giorno, che dicono aiuto, ci vogliono rubare le vacanze, questo è un crimine, non dicono proprio la parola crimine, e portano un pezzo forte a sostegno della loro tesi, che è un'intervista a Jerry Calà. Jerry Calà a pagina 3 bisogna staccare e anzi annuncia che lui porterà un suo show nelle fabbriche per far vedere come ci si può divertire, svagare, perché dice se non ci si svaga ora, insomma, una tesi, quella, la tesi Calà verrà definita, è una tesi giusta, tranne in un anno eccezionale come questo. Come questo. Per abbiamo quanto... detto è come una guerra mondiale, se si combatte una guerra mondiale fino a giugno, poi non è che si può andare in vacanza dalla guerra mondiale. Sì. Anche perché... Il Quotidiano Nazionale che ci porta anche una ricerca Quorum New Trend, secondo la quale uno su quattro, un italiano su quattro, non rinuncerà alle vacanze. Le questioni che hanno a che fare col governo, Paolo, ci portano anche alla vicenda Regeni. Ce ne siamo occupati ieri alle 8:20 con Maria Latella, ospite, il responsabile delle politiche di sicurezza del Partito Democratico. Alla fine è un po' sotto silenzio tra le mille cose di queste ore. Conte sotto ha firmato. Sì, Conte ha firmato. Sotto silenzio fino a un certo punto, perché Conte in questa intervista che ha dato ai cinque grandi giornali dice no, noi teniamo indietro la cosa, la vendita all'Egitto resta, e la vendita di due fregate, lo ricordiamo, sì, agli ascoltatori, all'Egitto, insomma, che hanno sollevato molte polemiche, perché si è detto, insomma, un po' uno scambio per non avere la verità sul caso Regeni, insomma, un po' la discussione. Infatti, grande su Repubblica, un articolo di Giuliano Foschini, Via Libera, le navi per l'Egitto. Il Foglio ricorda che quando era ancora il governo di centrodestra, il governo giallo-verde, Luigi Di Maio a dire che sul caso Regeni loro non avrebbero mai fatto un passo indietro, e che se entro dicembre, stiamo parlando del dicembre dell'anno scorso, non avessero chiarito, non avessero dato un chiarimento, si sarebbe addirittura arrivati alla rottura con l'Egitto, e mai si sarebbero fatte transazioni commerciali con l'Egitto. Ha cambiato governo, ha cambiato anche disposizione, sembra quasi che la presenza della sinistra, la presenza del PD, quasi in qualche modo tranquillizzi i 5 Stelle, Di Maio ministro degli esteri adesso, tranquillizzi i 5 Stelle che si può trattare con l'Egitto anche in attesa, sì, che i chiarimenti su Regeni vadano alle calende greche, cioè a mai più, perché è chiaro che se si riaprono i commerci, anche commerci di questo tipo, insomma, su Regeni, sì, è lecito non essere molto ottimisti. A proposito di quell'area, vabbè, è chiaramente una curiosità, Paolo, no? fa sorridere questa vicenda del generale Haftar. Ne ho trovato traccia solamente sul Quotidiano Nazionale a pagina 27, di taglio basso, e riporta le notizie dell'Independent, ha preso una fregatura Haftar, sì. Contratti, armi e mercenari truffato il generale Haftar. Cosa è successo? Che gli hanno fatto perdere 55 milioni di dollari, perché nella ricostruzione di questo quotidiano britannico, fonti diplomatiche, persone coinvolte negli accordi, ma su presunte violazioni dell'embargo sulle armi in Libia, hanno precisato che il generale avrebbe preso soldi pubblici, contributi dei propri sostenitori, per acquistare attrezzature da guerra, quali un elicottero d'assalto e via dicendo. Anche in presenza di un embargo continuano i traffici, e quindi figuriamoci con l'Egitto, le cose di cui parlavamo prima. Certo. E mentre continuano i traffici c'è pure un pollo che prende una fregatura. Ricordiamo che fino a un giorno fa, pochi giorni fa, Haftar veniva presentato come una specie di invincibile generale libico, sostenuto dall'Egitto, sotto dai francesi e dai russi, poi sono venuti sul campo turchi, non tanti, e lo hanno sgominato. Insomma, adesso da stare in rotta, e qualche giornale maligna su dei viaggi che fa in America Latina, quasi a cercarsi un rifugio, non si sa bene dove. Allora, abbiamo ancora veramente un minuto e mezzo, Paolo, oggi i tempi sono un po' stretti, ti vorrei portare su tutte le vicende che hanno a che fare con l'abbattimento delle statue. L'abbattimento delle statue oggi lo fa ancora da padrone sui giornali, ma c'è un abbattimento di una statua, oltraggio a una statua, che è quella di Montanelli a Milano. Su questa statua ieri Gad Lerner ha fatto un tweet dicendo: in fondo Montanelli, ma chi era? Non era neanche un grande giornalista, dice, sopravvalutato. Non ti dico, oggi sui giornali Paolo Guzzanti, un altro grande giornalista, prende il difesa di Montanelli e sostanzialmente dice a Gad Lerner: ma sarei tu che pensi di essere un grande giornalista rispetto a uno come Montanelli? E poi gli ricorda all'Erre, dice, guarda, tu non hai neanche un briciolo del coraggio, ricorda Gad Lerner, tu non hai neanche un briciolo del coraggio che ebbe Montanelli. Sul Foglio, sì. Giuliano Ferrara dice... Ah, bellissimo pezzo quello di Ferrara, bellissimo pezzo quello di Ferrara. Molto bello, dice, Montanelli avrebbe votato a favore dell'abolizione della sua stata, ma questo è certo. Cioè, sì, sicuramente. Se fosse stato per Montanelli, Montanelli, ricordiamoci, è l'unico giornalista che abbia acquistato un posto di senatore a vita, cioè c'è una fila di giornalisti, che me e te compresi immagino, che aspirano ad avere un posto, certo, di senatore a vita, sì. Io segnalo te, ti prego di fare altrettanto. Per Montanelli, per me, per è un po' presto, forse un po' presto. No, per no, me no, si può fare, c'è stato il caso di Cattaneo, della senatrice Cattaneo, anche da giovane si può avere un posto, un laticlavio. Quando diventerai Presidente della Repubblica, Paolo, io ti raccomando. Comunque Giuliano Ferrara dice avrebbe rifiutato di fare di farsi fare una statua, e vorrei ben vedere. Montanelli era il suo stile, la sua sprezzatura era di essere degnoso e sprezzante, no? Cioè, in certi casi. Questo va detto ad onore di Montanelli, e quindi diciamolo per una mattina sommessamente che ha torto Gad Lerner a giudicarlo, a considerarlo un giornalista sopravvalutato. Sì. Montanelli non lo fu. Grazie Paolo Mieli anche per oggi, torniamo a sentirci lunedì, tra poco con Maria Latella, i nostri ospiti, parleremo di questi famosi stati generali, naturalmente, e poi via col vento cancellato dalla HBO.